Canto venticinquesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto venticinquesimo. Ora era onde il salir non volea storpio, che il sole avea il cerchio di merigge lasciato al Tauro e la notte allo Scorpio. Perché, come fa l'uom che non s'affigge, ma vassi alla via sua, che gli appaia, se di bisogno stimolo trafigge, così entrammo noi per la callaia, uno innanzi altro, prendendo la scala che per artezza i salitor dispaia. E qual cicognin che leva l'ala per voglia di volare e non s'attenta ad abbandonar lo nido e giù la cala, tal era io con voglia accesa e spenta di dimandar, venendo infino all'atto che fa colui che dice s'argomenta. Non lasciò per l'andar che fosse ratto lo dolce padre mio, ma disse: «Cocca l'arco del dir che infino al ferro hai tratto». Allor sicuramente aprii la bocca e cominciai: «Come si può far magro là dove l'uopo di nutrir non tocca? Se t'ammentassi come Meleagro si consumò al consumar d'un tizzo, non fora disse a te questo sia agro. E se pensassi come al vostro guizzo guizza dentro allo specchio vostra image, ciò che par duro ti parrebbe vizzo. Ma perché dentro a tuo voler t'adage, ecco qui stazio, ed io lui chiamo e prego che sia or sanator delle tue piage. Se la vendetta eterna li dislego, rispose Stazio, là dove tu sie, discolpi me, non potert'io far niego». Poi cominciò: «Se le parole mie, figlio, la mente tua guarda e riceve, lume ti fieno al come che tu die. Sangue perfetto, che mai non si beve dall'assetate vene e si rimane, quasi alimento che di mensa leve, prende nel cuore a tutte membre umane virtute informativa, come quello ch'a farsi quelle per le vene vane. Ancor di gesto scende ov'è più bello tacer che dire, e quindi poscia geme sovr'altrui sangue in natural vasello. Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme, l'un disposto a patire e l'altro a fare, per lo perfetto luogo onde si preme. E giunto lui comincia ad operare, coagulando prima e poi avviva ciò che per sua materia fe gestare. Anima fatta la virtute attiva, qual d'una pianta, intanto differente, che questa invia e quella è già a riva. Tanto ovra poi che già si muove e sente come fungo marino ed indi imprende ad organar le posse ond'è semente. Or si spiega, figliuolo, or si distende la virtù che è dal cuor del generante dove natura tutte membra intende. Ma come d'animal divenga fante non vedi tu ancor. Quest'è tal punto che più savio di te già fece errante, sì che per sua dottrina fe disgiunto dall'anima il possibile intelletto, perché da lui non vide organo assunto. Apri alla verità che viene il petto, e sappi che sì tosto come al feto l'articolar del cerebro è perfetto, lo motor primo a lui si volge lieto sovra tanta arte di natura, ispira spirito nuovo di vertù repleto, che ciò che trova attivo quivi tira in sua sustanzia, e fassi un'alma sola che vive e sente, e se in sé rigira. E perché meno ammiri la parola, guarda il calor del sol che si fa vino giunto all'umor che dalla vite cola. Quando l'acse non ha più del lino, solvesi dalla carne ed in virtute seco ne porta e l'umano e il divino. L'altre potenzie, tutte quasi mute, memoria, intelligenzia e volontade, in atto molto più che prima acute. Senza restarsi, per se stessa cade mirabilmente all'una delle rive, qui vi conosce prima le sue strade, tosto che luogo lì la circunscrive. La virtù informativa raggia intorno, così e quanto nelle membra vive. E come l'aere, quand'è ben piorno, per l'altrui raggio che in sé si riflette, di diversi color si mostra adorno, così l'aer vicin qui vi si mette, in quella forma che in lui suggella virtualmente l'alma che ristette. E simigliante poi alla fiammella che segue il fuoco là ovunque si muta, segue allo spirito sua forma novella. Però che qui vi apposcia sua paruta è chiamata ombra, e quindi organa poi ciascun sentire infino la veduta. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi, quindi facciamo le lagrime e i sospiri che per lo monte aver sentiti puoi. Secondo che ci affiggono i desiri e gli altri affetti, l'ombra si figura, e questa è la cagion di che tu ammiri. E già venuto all'ultima tortura, sera per noi e volto alla man destra, ed eravamo attenti ad altra cura. Quivi la ripa fiamma in fuor balestra, e la cornice spira fiato in suso che la riflette e via da lei sequestra, onde irne convenia dal lato schiuso ad uno, ed io temeva il fuoco quinci, e quindi temeva il cader giuso. Lo duca mio dicea: per questo luoco si vuol tenere agli occhi stretto il freno, però che rar potrebbesi per poco. Summe Deus clemenzie! Nel seno del grande ardore allora udì cantando, che di volgermi fe caler non meno. E vidi spirti per la fiamma andando, perch'io guardava ai loro ed ai miei passi, compartendo la vista a quando. Appresso il fine che quell'inno fassi, gridavano alto: virum non conosco! Indi ricominciavan l'inno bassi. Finitolo anche gridavano. Al bosco si tenne Diana, ed Elice caccionne, che di Venere avea sentito il tosco. Indi al cantar tornavano, indi donne gridavano, e mariti che fur casti, come virtute matrimonio imponne. E questo modo credo che lor basti per tutto il tempo che il fuoco li abbrucia. Con tal cura conviene e con tai pasti che la piaga d'assezzo si ricuccia. Fine del canto 25.